qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere di distintivo, solo chiacchiere di distintivo, sei solo chiacchiere di distintivo, chiacchiere di distintivo. .02 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, questa è 25 o'clock. Ci piace quest'aria, questa atmosfera di mobilitazione, oltre che quest'aria, questa atmosfera di piogge. Improvvise, imprevedibili, frequenti, incombenti. Però sembrerebbe che ora un po' di bel tempo ci sarà, anche perché ci piace questa atmosfera, perché stiamo aspettando, come annunciato in precedenza, io ho annunciato qualche minuto fa e annunciato anche nei giorni scorsi, 1-2 giugno torna la CMona, cosiddetta, tra virgolette, cioè la Critical Mass Interplanetaria, qua a Roma. È proprio l'ultimo weekend di maggio, come gli si addice per usanza. Fra poco ne parleremo insieme a compagne, compagne, compagno, come vorrebbero costoro. E ne parleremo con piacere, perché abbiamo, come sapete, da molti anni, sia come radio sia come spazio di 25 o'clock, è dedicato al ciclismo urbano, trasmissioni e serie di trasmissioni. Perché questa pratica del trasporto, dell'autotrasporto, auto, non con l'auto, ma nel senso di trasportare se stessi, poi si va a incrociare con tutta una serie di altre elaborazioni, discipline, esperienze. Va bene, parliamo con loro, dai, non voglio anticipare nulla. Quello che invece volevo dire è che siamo molto curiosi di capire, appunto, proprio in questo poi progredire negli anni della pratica della bicicletta, delle critical mass e del loro allargamento un po' in altri posti da quelli di dove si è sviluppata principalmente questa pratica, quali sono le elaborazioni nuove che son nate, sono cresciute. Bene, nel frattempo abbiamo aperto la pagina del browser della radio, perché non vogliamo andare a memoria, anche se probabilmente in questa occasione ci riusciremmo pure andare a memoria. Comunque, innanzitutto un grazie a tutte e a tutti, e anche agli ufociclisti, ai ciclisti urbani, a tutti coloro che sono venuti sulle due ruote a trazione umana per ben due volte, facendo ben due anelli intorno alla radio. e a tutte e tutte le altre che sono venuti comunque in qualsiasi maniera qua via dei Volci 56 venerdì scorso. Alla titubanda che al solito ci ha intrattenuto con le loro elaborazioni e i loro adattamenti. Ringraziamo 100 celle poste Psycho Jules per il Ben Sound System che ha animato la festa della radio, insomma, a tutti e tutte voi che siete venuti qua sotto a festeggiare i 24 anni della radio. Vabbè, comunque, dai. Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il sito 06491750, il recapito della radio. Yeah.

23-20 minuti primi, Onda Rossa. E abbiamo iniziato con delle note che ci hanno portato in giro per lo spazio, per l'universo, o Queen. Questa era la loro Organ Accumulator, 1971, mentre ci suonano alla porta ed entrano gli UFO ciclisti proprio in questo momento. Vi ricordiamo che la campagna di radio abbonamento di Onda Rossa 30 per 1000 continua fino al 14 e 15 di giugno. Ciao UFO ciclisti. Che dicevamo, sono entrati proprio in questo istante negli studi della radio. Dicevamo, la campagna di abbonamento che proseguirà fino al 14-15 giugno, quando ci sarà la festa della radio Onda Rossa Festa. C'è lo spot che gira, c'è una pagina sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è Facebook, ci stanno insomma tutti i social mobilitati. A questo scopo troverete il programma. E le varie descrizioni dettagliate proprio sul sito della radio. www.ondarossa.info, come trovate anche la pagina del radio abbonamento. 30 per 1000. In qualche modo sostenete Radio Onda Rossa. E magari chiediamo anche ai promotori, ai partecipatori, agli animatori della CM Interplanetaria.